mare sia calmo quando partono gli emigranti, che il vento la smetta di soffiare, che la notte sia breve come il freddo da patire, che l'acqua sia calda come il sole sulla spiaggia, quel sole che non hanno visto mai, forse per colpa di altri, forse per colpa di noi, che siamo tutti innocenti, che siamo tutti per bene, che siamo tutti signori, che siamo tutti un po' eroi, in un mondo bastardo che perdono non sente, solo il potere al suo fianco è così delinquente. Bambino, ti prego, non tradire la vita, solo l'amore per gli altri è l'unica via d'uscita. Non esiste un colore, non esiste un diverso, l'uomo e lo zingaro sono da sempre lo stesso. Mia donna cara, non piange, domani avrai forza, saremo tutti insieme in questa lotta. Per disonesti onesti, per un pezzo di pane, ti accorgerai come l'uomo ama farsi del male, e non conosce ragioni, non prova pietà, perché non ha mai incontrato la povertà. Speranza a questa realtà che non dice più niente e si nasconde la sera, perché ormai ha paura di una nuova primavera. Così rossa nel cielo, così bella di uomini che si stringono la mano e non partono più. Così rossa rossa nel cielo, così bella di uomini che si stringono la mano.